24 mattino. Sono le 8 e 18 minuti, ben ritrovati, eccoci qui con 24 mattino del momento dell'economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, ben ritrovata. Ben ritrovati a tutti, grazie Alessandro. Allora, ciao. Oggi continuiamo, come in questa settimana, a parlare della solidarietà che si è mossa in tantissime forme, le più variegate, per quello che è successo in Abruzzo. Parliamo oggi sicuramente di uno dei canali più noti, parliamo di quello che sta facendo la Croce Rossa Italiana in questi giorni in Abruzzo. Ho un dato relativo alla mole di donazioni che la Croce Rossa Italiana ha ricevuto in questi giorni. In neanche due giorni di sottoscrizione per i terremotati abruzzesi sono giunti alla Croce Rossa Italiana circa 2 milioni di euro. Questa cifra è stata resa nota ieri dal commissario straordinario dell'associazione Francesco Rocca, che oggi conta sul campo centinaia tra volontari e dipendenti che portano soccorso. Io ringrazio per essere con noi questa mattina a Soldi e Dintorni Leonardo Carmenati, che è responsabile del Dipartimento Sociosanitario della Croce Rossa Italiana. Carmenati, buongiorno. Lei è lì, buongiorno. È lì all'Aquila? No, in questo momento non sono all'Aquila, sono al Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana. Sono stato lì fino a ieri, ma oggi non sono lì. Mi dica. Allora, circa 200.000 euro delle risorse provengono da cittadini privati, 1 milione di euro è stato donato dal Comune di Roma, 700.000 franchi svizzeri dalla Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, ho letto. Adesso non è che ci interessa tanto capire chi ha fatto di più o chi ha fatto di meno, l'importante è che queste donazioni continuino. Fra un po' ridarò anche i canali attraverso i quali è possibile raggiungervi. Come vengono ripartite queste risorse? Che utilizzo ne fa la Croce Rossa in queste ore? In queste ore la Croce Rossa non sta utilizzando esattamente quelle risorse, perché noi abbiamo quello che si chiama un fondo per le emergenze nazionali, che è sempre, diciamo, pronto nel nostro bilancio per affrontare questo tipo di esigenze, quindi proprio in questi giorni non abbiamo attinto da quelle risorse. Sicuramente, diciamo, quello che ci proponiamo di fare è lavorare su dei progetti specifici, più che legati a questo frangente, a questa contingenza, a progetti che riguardano poi l'assistenza per quello che rientrare nella vita normale. Per fare un esempio, lavorare attraverso un esempio la componente dei pionieri, che è quella che si occupa dei giovani, quindi per la reintegrazione dei giovani, oppure attività di carattere psicologico e sociale, perché le popolazioni colpite da questo tipo di eventi sono generalmente molto bisognose di un supporto psicologico. Questo è soltanto, ovviamente, a titolo puramente semplificativo. Noi non siamo una forza che poi ricostruisce in termini proprio pratici strutture o scuole, però possiamo dare un contributo alla ricostruzione anche attraverso, certo, queste donazioni. Allora, in questi giorni in molti ci hanno chiesto come poter contribuire, per esempio donando direttamente vestiario, coperte, lenzuola pulite, tutto ciò che attiene appunto all'ambito dell'abbigliamento. Noi eravamo un po' disorientati sul suggerimento da dare in questo senso, perché non avevamo esattamente anche un canale da suggerire ai nostri ascoltatori, e io in questi giorni, forse anche sbagliando, Carmenati lei me lo può confermare o meno, ho detto andate al punto più vicino della Croce Rossa, quello più vicino alla vostra abitazione, per capire se potete donare anche questo. Ce ne siamo resi conto, sì. Ecco. Diciamo che ci sono stati alcuni comitati con le file chilometriche, con persone, con buste di aiuti di tutti i tipi. Sicuramente è un segnale di grandissima sensibilità, un segnale di grandissima solidarietà, però, diciamo, quello che occorre oggi, quello che noi stiamo cercando di veicolare come informazione, è sicuramente continuare a fare donazioni legate proprio anche alla raccolta di denaro, anche fosse un solo euro. Poi, diciamo, ci siamo concentrati un pochino di più, e troveranno, chiunque volesse informarsi sul nostro sito, tutte le informazioni legate a farmaci e presidi che possano essere utili ai nostri punti medici avanzati, che in questo momento operano su centinaia di sfollati. E abbiamo messo anche una piccola lista di beni di prima necessità, anche se tutte le istituzioni, a cominciare dal Presidente del Consiglio e dal Dipartimento della Protezione Civile, stanno dicendo non ci donate come singole persone, il vostro contributo, chiamiamolo in natura, perché, diciamo, c'è un problema sicuramente di logistico, ma anche legato al fatto, alla natura delle cose, perché Ovviamente quello devono avere certe caratteristiche sia legate proprio intrinseche alla cosa che si dona, quindi devono essere nuove. Ecco, ce le può spiegare, esatto. Sia, mi scusi, così concludo, anche legate al tipo di confezionamento, perché poi il trasporto di tantissime cose ha bisogno di essere trasportato in un certo modo, perché poi deve essere conservato, confezionato, eccetera. Mi dica. No, infatti le chiedevo appunto di spiegarci bene le caratteristiche di quelli di cui avete bisogno. C'è qualcosa di specifico di cui avete bisogno per anziani e bambini? Per anziani e bambini stiamo provvedendo noi a portare sicuramente i pannolini, gli omogeneizzati che servono appunto per i bambini. Per quanto riguarda gli anziani, devono stare al caldo, stiamo provvedendo a dotare tutti i campi stufe, tutte le nostre tende devono essere ovviamente riscaldate, anche se noi non serviamo soltanto i nostri campi attendati, ma campi attendati anche che vengono fatte direttamente dalla Protezione Civile piuttosto che da altre associazioni. Beh, certo, noi poi immagino. Occupiamo un pochino anche della gestione, non solo direttamente del campo così come proprietari, chiamiamoli così, delle tende. Tra l'altro la Croce Rossa Italiana è anche l'associazione che è quella, credo, deputata solitamente per prima all'allestimento delle cucine da campo, Carmenati. Sì, diciamo. Quindi la distribuzione del cibo. In Italia siamo abbastanza specializzati a fare questo tipo di attività. Lo dico in Italia perché Croce Rossa Italiana fa parte di un movimento internazionale, quindi quando noi facciamo delle operazioni internazionali in territori di guerra o di disastro idrogeologico, interveniamo generalmente insieme ad altre società nazionali, ci siamo un po' specializzati nelle cucine da campo, però diciamo comunque noi non siamo soltanto questo, siamo un'associazione di volontariato che si occupa anche di attività sanitarie attraverso i propri volontari del soccorso, le infermiere volontarie, che sono dei veri e propri professionisti dei disastri nostro malgrado. E infatti. Perché ho citato solo due delle nostre componenti, poi abbiamo una sorta di genio del corpo militare, nel senso proprio della parola militarmente utilizzata, che è l'ispettorato del militare della Croce Rossa, che sono diciamo dei veri e propri professionisti nell'area logistica e quindi anche quella dell'allestimento delle cucine e l'allestimento dei campi. Carmenati, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro buon lavoro naturalmente, sembra grazie scontato ma glielo fate. Auguriamo davvero grazie. Di cuore. Io ricordo rapidamente come si possono effettuare le donazioni alla Croce Rossa Italiana: si possono utilizzare due canali, c'è un conto corrente bancario che è stato aperto presso la Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Roma Bissolati, e poi c'è un conto corrente postale, questo è facile, lo posso dare, il numero 300004 intestato la Croce Rossa Italiana. Si possono fare delle donazioni anche attraverso il sito internet della Croce Rossa Italiana.it/donazioni. Alessandro, ho terminato. Grazie molto. Alle 12 torniamo. Alle 12 ritorniamo sul tema del terremoto, un po' più in generale, per affrontare la questione dell'impossibilità di assicurarsi contro il terremoto e quindi assicurare le nostre abitazioni contro ogni tipo di pericolo a cui questa appunto può essere sottoposta. Anche se ai nostri microfoni qualche giorno fa il commissario Zamberletti ha detto bisognerebbe farlo questa cosa, insomma è una proposta che non trova breccia in Italia. Assolutamente no. Sono le 8:31 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Uno sguardo alle notizie in primo piano: è salito a 275 il numero delle vittime del terremoto in Abruzzo, mentre la terra trema ancora. L'ultima scossa alle 6:32 di magnitudo 4 sulla scala Richter. Intanto si continua a scavare tra le macerie e si andrà avanti fino a Pasqua. E oggi nel Consiglio dei Ministri saranno previste norme più dure contro gli sciacalli. Vi ricordo che tra l'altro di terremoto e di ricostruzione parleremo anche alle 8:45. La Camera ha approvato il decreto legge sulla sicurezza senza due punti considerati fondamentali dalla Lega: le ronde e il prolungamento della permanenza degli immigrati nei centri di riconoscimento da 2 a 5 mesi. Nel voto segreto si registrano 17 franchi tiratori nella maggioranza e il ministro degli interni Maroni si è detto furibondo. Non prolungando la permanenza nei centri di identificazione, ha detto Maroni, la Camera ha votato un indulto per i clandestini. Ancora nessuna traccia di Michael, il bambino di 5 anni di San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, allontanatosi da casa ieri pomeriggio per andare a cercare il padre nei campi. I carabinieri ritengono al momento improbabile un rapimento. Infine il calcio, stasera l'Udinese, ultima italiana rimasta in Europa, affronta il Werder Brema nell'andata dei quarti di finale di Coppa UEFA con inizio alle 20:45. Ieri invece ci sono state le ultime due sfide dell'andata dei quarti di finale di Champions League. I risultati: Barcellona-Bayern Monaco 4-0, Liverpool-Chelsea 1-3. E sono le 8:32 minuti in questo istante, 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi. Come anticipato, parliamo di questa proposta che si può definire così, l'anagrafe degli eletti. L'anagrafe degli eletti è una proposta di legge parlamentare all'insegna della trasparenza. Il principio sostanzialmente è semplice: chi è eletto in Parlamento, ma anche chiunque amministra la cosa pubblica, dovrebbe in maniera chiara dichiarare tutto ciò che guadagna, quello che possiede, le eventuali partecipazioni in società, magari le partecipazioni in consigli di amministrazione che possono creare anche qualche conflitto di interesse. Insomma, mettere a disposizione una propria radiografia patrimoniale in modo che il cittadino sappia in maniera trasparente chi ci governa, chi amministra la cosa pubblica. È diventato anche una proposta di legge presentata al Senato, tra i primi firmatari, primo firmatario il senatore Pietro Ichino del Partito Democratico, che è nostro ospite. Senatore, buongiorno. Buongiorno. Allora, questo è l'anagrafe degli eletti, il principio semplice, no? Sì, no. Diciamo che esiste già una legge del 1982 che sancisce la pubblicità di redditi e patrimoni dei parlamentari, se non che questa legge prevede la pubblicazione mediante un bollettino che è praticamente irreperibile, molto difficile. Anche questo mi ha già colpito. Cosa vuol dire che c'è un bollettino ma è irreperibile? Cioè, il bollettino viene pubblicato ma non si trova. È pubblicato ma è molto difficile da trovare, e anche per i giornalisti. Sai che mi ha messo già la curiosità, lo voglio in mano domani se possibile questo bollettino. Ecco, e avrà difficoltà a procurarselo, non lo trova certo in edicola. Ora, nel luglio scorso io presentai un ordine del giorno al Senato chiedendo che la Presidenza mettesse online, in rete, su internet, tutti i dati pubblicati sul bollettino in modo da renderli veramente pubblici. La Presidenza accettò il mio ordine del giorno, però poi a 2 mesi di distanza la cosa non era ancora fatta, e mi informarono che, poiché la legge dell'82 prevedeva che questa pubblicazione avvenisse congiuntamente per i dati di Camera e Senato, la Camera non si era impegnata e quindi non si poteva fare. Insomma, non mi convinceva molto questa, anche perché francamente la legge obbliga a pubblicare su questo bollettino, ma non è che vieta di mettere gli stessi dati online, quindi nulla vietava di interpretare la legge in modo evolutivo. Oggi pubblicare significa mettere su internet. Comunque, visto il scarso risultato, anzi nullo risultato di quell'iniziativa, il 17 dicembre, nello stesso giorno in cui il Senato ha votato il disegno di legge contenente i principi di trasparenza totale e valutazione indipendente nelle amministrazioni pubbliche, che sono i due principi di cui mi ero fatto promotore e paladino nel dibattito su quel disegno di legge, ho pensato che fosse significativo dire se imponiamo trasparenza e valutazione per tutte le amministrazioni pubbliche, dobbiamo imporlo anche a noi certo. stessi. A questo proposito, lei ha fatto questa proposta di legge, sì. Risultati per ora scarsi. Tutti all'inizio hanno detto: ah, ma perché no, è una buona iniziativa, eccetera. Intanto però, professore, la chiamo anche professore, sapete, giuslavorista molto noto, Pietro Ichino, visto che i radicali, per esempio, hanno sposato in toto e dicono quanto guadagnano, cosa hanno, anche lei credo l'abbia fatto, cioè, perché bisogna dare il buon esempio, insomma. Questo l'ho fatto subito appena eletto, ho messo sul mio sito, che tutti possono consultare, www.pietroichino.it, in una sezione intitolata Rendiconti, ho messo i redditi dell'anno precedente, che erano allora quelli del 2007, adesso appena farò la dichiarazione dei redditi 2008 caricherò quella, e le mie proprietà, non molte, ma insomma ho scoperto che paga 1200 euro per il suo appartamento a Roma. Scusi, tanto è pubblico, l'hanno detto tutti. Quindi, è così. Si può dire. Cerco di dare conto in modo molto preciso di quello che guadagno, come parlamentare, della coda di qualche reddito della mia attività precedente. Quella di professore è sospesa, l'attività forense c'è ancora qualche pagamento di qualche coda di lavori non ancora retribuiti. Vabbè, ma tanto sul sito c'è tutto. Tra l'altro, senatore, con noi c'è anche il presidente della provincia di Como, Leonardo Carioni. Buongiorno, presidente. Buongiorno a lei, buongiorno professor Ricchino. Lega Nord, lei. Ma voglio dire, abbiamo scelto lei, ma in realtà ce ne sono tante di amministrazioni anche locali, province, comuni, che hanno sposato questa linea e hanno approvato l'anagrafe degli eletti. È una cosa di cui si parla ancora poco, ma è molto importante. Per esempio, la provincia di Como l'ha sposata, l'ha votata, e credo nel giro di 6 mesi, se è così, sì, presidente, sì, ci sarà tutto su internet: quanto guadagnano, quanti, se hanno appartamenti, immobili, partecipazioni, tutti i consiglieri, il presidente, lei, il vicepresidente. È così, esatto. Innanzitutto saluto il professor Ricchino, me lo ricordo a Como in un incontro pubblico con il ministro Maroni, e fu una bellissima serata, ebbi l'occasione di conoscerlo, quindi è un piacere averlo in trasmissione con me. È partita questa iniziativa dal nostro consiglio provinciale e da un nostro consigliere, Alberto Bartesaghi, perché in un certo periodo della nostra amministrazione sono saltate fuori un po' delle cose abbastanza strane. Qualche assessore che si era presentato con un tipo di lavoro e di professione, poi guarda caso esce con una società, con un'altra società, magari con un'impresa che costruisce case. Insomma, tutte cose che hanno incuriosito un po' tutta Como, i media, i giornali e un po' tutti. E questa fu l'occasione per spingere il Consiglio provinciale a preparare questa anagrafe degli eletti, che contiene, come giustamente lei prima accennava, un po' tutti i dati, dall'identità, i rimborsi, i gettoni di presenza, ma soprattutto anche, oltre ai redditi e alle proprietà, anche soprattutto il lavoro svolto dai consiglieri, perché non solo quanto prendi, quanto incassi con i gettoni di presenza o col tuo stipendio da politico locale, ma anche quanto rendi. Quanto rendi, quindi le tue presenze in consiglio, le tue presenze in giunta, le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, il finanziamento e i contributi ricevuti per la campagna elettorale. Sì, insomma, una trasparenza totale. In questo serve, perché poi sa benissimo, le prossime elezioni o quando un amministratore si ricandida, poi diventa tutto bello, sai, fanno la barba, si mettono lì belli, sembrano tutti belli. Invece se c'è qualche dato che dice ai, ti sei comportato male. Ah, beh, il cittadino può giudicare. Tra l'altro, senatore Ichino, un punto molto importante è quello delle, come ha detto il presidente della provincia di Como, delle partecipazioni nelle società. Perché lì ci sono i conflitti di interessi, no? Oddio, magari non emergeranno tutti, però certamente è un buon inizio, si individuano degli interessi e quindi dei possibili conflitti di interessi che altrimenti restano totalmente invisibili. Ma anche nei redditi di lavoro, dai redditi di lavoro possono emergere dei conflitti di interesse, perché ci può essere conflitto di interesse anche tra l'attività che una persona svolge, attività professionale per esempio, e le decisioni che prende come politico. Pensiamo per esempio a un avvocato, quanti conflitti di interesse possono determinarsi. Beh, per me un avvocato non dovrebbe neanche fare il parlamentare, o se fa il parlamentare smette, ma questa è una vecchia diatriba, insomma. Però almeno finché la cosa non verrà regolata diversamente, almeno che si sappia che qual è l'attività svolta, quindi che ci sia la possibilità ed una visibilità che oggi manca, e in questo siamo uno dei paesi più opachi d'Europa. Nella relazione introduttiva al disegno di legge io ho riportato il dato relativo a Gran Bretagna, Germania, Francia e Spagna, quattro grandi paesi europei dove questo principio di pubblicità è sancito. Però, professore, le hanno detto c'è la privacy, ogni tanto si tira fuori che quando bisogna osteggiare qualcosa la privacy. La Gran Bretagna è la patria, la culla della privacy, l'hanno inventata lì, il diritto alla riservatezza personale, e però sono il paese dove la trasparenza totale nelle amministrazioni pubbliche e per i parlamentari è stato sancito per primo, perché giustamente in Gran Bretagna, in America, dicono non c'è nulla di più pubblico della funzione pubblica. La privacy tutela la riservatezza dei fatti della vita personale, ma il reddito e le proprietà sono dei dati pubblici che soprattutto il politico, nel momento in cui chiede il voto dei cittadini e si candida a gestire la cosa pubblica, accetta che siano ancor più visibili di quanto non lo sono per tutti. Guardi che i redditi e proprietà sono, soprattutto le proprietà immobiliari, sono dati pubblici in realtà per tutti i cittadini, ma per il politico devono esserlo un po' di più, perché proprio perché il politico si candida a svolgere questa funzione. Certo. Senatore, le chiedo ancora in conclusione, molti dicono, è per esempio uno dei trucchi più facili quello di intestare ai coniugi proprietà eccetera, questa proposta di legge prevede anche i coniugi? Riguarda anche accidenti, i parenti entro il primo grado, e se il parente... Proprio una radiografia totale, uno si deve mettere a nudo tutto. Se il parente rifiuta si deve annotare questo rifiuto, e quindi diciamo c'è un elemento di opacità nella situazione del singolo parlamentare di cui il pubblico potrà tenere conto, con questa avvertenza che in realtà le proprietà immobiliari e i redditi di tutte le persone, anche del coniuge, sono visibili alla casa comunale, le dichiarazioni dei redditi sono visibili da parte di tutti, quindi non c'è giustificazione nel rifiuto di mettere online anche il reddito del partner, del coniuge o dei figli. Però poiché questi non hanno compiuto la scelta di candidarsi e potrebbero dire io non ne sono responsabile, e verrà annotato il rifiuto. Beh, insomma, senatore Chino, in bocca al lupo per questa iniziativa, noi come al solito la appoggiamo, ecco, in questo caso totalmente al nostro appoggio, come ringrazio il presidente della provincia di Como, Leonardo Carioni della Lega, che insomma nella sua provincia è così, ma non è l'unico, sono tante amministrazioni locali, anche piccole, che hanno già adottato questo provvedimento. Speriamo davvero che faccia breccia. Vedo e leggo dei soliti insomma ostracismi in Parlamento, c'è chi storce il naso, la privacy. Dubito, insomma, ho paura, ho temo che ci siano delle resistenze molto forti, ma noi, se possibile, torneremo e appoggeremo e faremo una... Voglio quel bollettino, tra l'altro lo dico, voglio assolutamente avere le mani, mettere le mani su quel bollettino introvabile di cui ci parlava il senatore Chino, che ringrazio, saluto, così come il presidente Carioni. Alle 8:48 minuti, l'ultima parte di 24 mattino, dunque il terremoto in Abruzzo. È ovviamente anche il momento già di pensare alla ricostruzione, di pensare a ricostruire, di pensare ovviamente a ridare le case alle persone, alle tante migliaia di persone che sono rimaste sfollate, sono sopravvissute, questa è la cosa più importante, ma adesso hanno bisogno di una casa, c'è bisogno di ricostruire, e purtroppo ovviamente servono tanti soldi. E, purtroppo, dicevo, in passato le ricostruzioni del terremoto sono state anche storie un po' all'italiana di grandissimi sprechi. Io tra l'altro saluto Sergio Rizzo del Corriere della Sera, buongiorno e ben ritrovato Sergio. Buongiorno a tutti, buongiorno. Per esempio, quando dobbiamo pensare agli sprechi maggiori, cosa dobbiamo pensare? Dobbiamo pensare all'Irpinia, dobbiamo pensare al Molise? Ma l'Irpinia è stato un capolavoro da questo punto di vista. il Molise è stata una piccolissima erpigna, considerando che il Molise è una regione che ha 320.000 abitanti, quindi meno di un decimo della Campania, e quindi diciamo lì in sedicesimi però si sono verificate le stesse cose. Qual è stato il principio che ha portato a questa, diciamo, questo spreco, chiamiamolo col suo nome, perché quello è stato anche in Molise? È stato l'allargamento del cosiddetto cratere in un modo indiscriminato. Cioè, il terremoto del Molise si è verificato a San Giuliano di Puglia ed altri comuni, pochi comuni, una decina in tutto, che sono stati effettivamente danneggiati. Nel giro di pochi mesi la zona interessata, e quindi la zona che poi è quella a cui sono andati i contributi, è stata allargata a tutto il territorio della provincia, certo, di Campobasso. Cioè, tu scrivevi sul Corriere della Sera, sì, erano 27 i comuni davvero colpiti, sì, i comuni interessati dai benefici sono diventati 83, non si capisce perché, insomma, allargata, cioè ci sono dei comuni che hanno avuto il campanile della chiesa con una crepa, esatto, e sono entrati nei benefici. Esatto, ce n'è stato addirittura uno, se non ricordo male, di questi comuni, che non ha neanche fatto la domanda, il cui sindaco non aveva neanche fatto la domanda per accedere a questi contributi, e gli erano andati lo stesso, perché era l'unico comune che sarebbe rimasto altrimenti fuori dal cosiddetto cratere. In Irpinia sono stati centinaia, non ce lo dimentichiamo, addirittura tutta la provincia di Napoli, e poi la Puglia e poi la Basilicata. Cioè, con questa logica si impedisce a chi deve effettivamente ricostruire di avere l'attenzione necessaria nel proprio territorio, e si consente anche a chi non ne ha diritto, no, di fruire di certo. Mi ha colpito, per esempio, però, l'articolo che abbiamo trovato, sempre a tua firma, risale al 2002, quindi chissà se è da aggiornare. In Irpinia, tu scrivevi nel 2002, si spendono 150 milioni di euro l'anno in che cosa? In contenziosi, cioè non per ricostruire, ma per fare i contenziosi. Vero. Per pagare gli avvocati, per pagare gli arbitrati, ma che è? Beh, perché i lavori non sono mica finiti, guardate il Belice. Ieri sera c'è stata una trasmissione televisiva a cui ha partecipato anche Sgarbi, che è sindaco di Salemi, il quale, che è un comune anche lì del cratere del Belice, no? del terremoto del 68, lui raccontava che ancora adesso si continuano ad abbattere le vecchie case che sono state terremotate nel 68 per poterle ricostruire. Cioè, il terremoto poi alla fine diventa un colossale affare. No, guardate il Molise. Il Molise, con, diciamo, la giustificazione che bisognava rilanciare le attività economiche, no? Ha consentito che venissero impiegati cospicui fondi pubblici, risorse ordinarie in quel caso e non risorse straordinarie, però per fare delle cose che non avevano alcuna attinenza con il terremoto. No, per esempio, sono stati creati dei musei, sono stati creati dei percorsi agrituristici, sono stati finanziati dei programmi televisivi addirittura. Sì, io li ho qua davanti, forse tu li hai scritto tu. Il Canneto di Rocca Vivara, al Museo del Profumo di Sant'Elena Sannita, gli Zampognari di Scapoli, che non ce ne vorranno, ma insomma, il programma televisivo On the Road. Il presidente Iorio so che aveva risposto dicendo non furono usati terremoto, ma... però insomma, di certo qualcosa delle ricostruzioni, purtroppo in Italia a ogni ricostruzione c'è qualcosa che non andava. Tra l'altro, Sergio, c'è con noi, lo voglio salutare, il presidente della provincia di Belluno, Sergio Reolon. Buongiorno, presidente del Partito Democratico. Presidente, buongiorno. Eccoci qua. Reolon, ci sente? Dobbiamo ripristinare la linea, perché ha fatto questa proposta il presidente Reolon. Allora, intanto comincio a chiederne conto a Sergio Rizzo che ne pensa. Utilizziamo le accise sulla benzina che furono istituite per il disastro del Vajont del 63, perché sapete che le accise sulla benzina sono state istituite negli anni e mai tolte. Per esempio, noi paghiamo ancora il litro di benzina 1,90 lire, purtroppo ve lo dico in lire perché non ho fatto in tempo a convertire. Per la guerra in Abissinia nel 35 furono istituite 14 lire per la crisi di Suez del 56, 10 lire per l'alluvione di Firenze del 66, 10 lire per il terremoto del Belice del 68 e così via, insomma, no? E ha detto il presidente Reolon: utilizziamo le 10 lire istituite per il disastro del Vajont nel 63, le utilizziamo in Abruzzo. Presidente Reolon, abbiamo ripristinato la linea? Buongiorno, eccoci. Lei ha fatto questa proposta: utilizziamo le 10 lire di accise sulla benzina istituite per il Vajont, dirottiamole lì per l'Abruzzo. Sì, certamente, ma c'è un motivo anche, diciamo, simbolico per cui io ho fatto questa proposta, perché all'Aquila si celebrò il processo con i responsabili della strage del Vajont. Ah, è vero. Quindi è vero. C'è un legame forte fra il Vajont, quindi fra Longarone, la provincia di Belluno, e l'Aquila, e allora io dico, quei soldi, quell'accisa che fu istituita allora per la ricostruzione del Vajont e che non venne più tolta dal costo della benzina, il governo la destini immediatamente per la ricostruzione, per gli interventi, la ricostruzione del terremoto dell'Aquila, degli danni provocati. Quindi non vuol dire mettere una nuova tassa, una parte delle accise che già si pagano nella benzina. Sulla benzina paghiamo circa 0,25 centesimi varie accise, ad esempio quella del canale di Suez del 56, 14 lire è ancora lì, come quella del Vajont, 10 lire. Allora io dico, usiamo quelli, il governo decide immediatamente non di mettere una nuova tassa, non di aumentare la benzina, ma di usare quella per uno scopo. Ecco, perché Sergio Rizzo del Corriere della Sera, ovviamente non è che l'accisa che ora si paga e che fu istituita per il Vajont, come per il Belice, come per il Friuli, non è che si paga per quelle ricostruzioni, però sono tasse che lo Stato ha a disposizione, le utilizza per che cosa e perché non potrebbe utilizzarle effettivamente per l'Abruzzo? Ma sarà stata spesa 50 volte già quella. Perché sappiamo che le accise poi non le vengono messe, ma non vengono tolte per un motivo, no? Perché più tasse ci sono, più lo Stato incassa e più per le sue necessità, voglio dire. Io trovo assolutamente apprezzabile questa proposta, ma sinceramente sarei sorpreso dalla lungimiranza dei nostri governanti se venisse accolta. Ma in fondo sono state messe per quello, per fronteggiare quelle crisi. Poi c'è anche quella per il terremoto dell'Irpinia, c'è anche quella per la missione in Libano nell'83, cioè paghiamo queste accise. Quindi Rizzo, dovrebbero essere utilizzate per questi scopi, se no. Ah, non c'è dubbio, ma c'è anche, se non sbaglio, sulle buste paga c'è ancora il prelievo delle case Gescar, no? Quindi però diciamo per le case popolari cosiddette non si spende più la lira chissà da quanti anni. Quindi diciamo, da questo punto di vista sappiamo che lo Stato italiano è uno Stato che è molto lesto nell'applicare le imposte ed è molto meno lesto nel toglierle. O nell'applicarle in maniera corretta. La proposta è interessante e provocatoria, però mi permetto di dubitare. Ma qui avevamo il senatore Chino che ci ha parlato dell'anagrafe degli eletti, ma insomma ci sono gli ostracismi. Noi vorremmo dare anche un messaggio di speranza, che qualcosa anzi un giorno lo faremo. Tutte le proposte che abbiamo lanciato da 24 mattino, le abbiamo fatte tante in questi mesi, poi andremo a vedere che fine hanno fatto. Noi lo facciamo e teniamo monitorato tutto. Ringrazio sia Sergio Rizzo del Corriere della Sera che il presidente della provincia di Belluno, Sergio Reolon, augurando insomma che questa proposta sia effettivamente una proposta accolta e concreta di aiuto. Ci fermiamo qui con Alessandro Marcotulli e Laura Marchesi in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Tra poco c'è il GR, poi uno speciale dedicato ancora all'approfondimento sulle ultime notizie dall'Abruzzo. Noi ci risentiamo domattina. We'll be right back.